Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Quasi puntualissimi, sono le 21:58 secondi in questo preciso istante. Oggi è giovedì 7 aprile 2011, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spalore, che anche questa sera nella sua trasmissione avrà l'onore di avere un'artista bravissima, ma poi ne parleremo. E intanto volevo salutare il mio ormai fedele compagno di viaggio. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, il tuo alter ego. Sì, tu sei sempre quasi, presente. Quasi. Qualche dato tecnico. Allora, questa dicevo è Blu Radio Veneto, le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, ve lo ricordo, è www.bluradioveneto.it. Poi abbiamo anche la pagina su Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, oppure se qualcuno ama la musica rock può collegarsi nell'altra pagina di Facebook, che cioè Blu Radio Veneto Rock Wave, curata soprattutto da Alberto Prisco, che tra l'altro è anche il nostro direttore artistico, che salutiamo. Certamente, che è il curatore di tutti i nostri live praticamente. Poi no, vi ricordo i nostri numeri telefonici. Allora, quello per raggiungerci qui in studio è lo 049 875 6423, e se invece questa sera, come le altre volte, se volete mandare qualche messaggio, qualche saluto, un bacio, che ne so, un abbraccio a questa, oppure fare anche qualche domanda a questa artista, vi ricordo il nostro numero cellulare, che è il 346 23 20 033. Un'ultima cosa, siamo in streaming audio collegandomi nel sito www.bluradioveneto.it, cliccando sulla scritta sotto la scritta streaming c'è una freccia nera, cliccando lì sentite la radio 24 ore su 24. Ma poi, siccome la bellezza questa sera è tanta, abbiamo anche le webcam, e comunque tutte le volte che facciamo live ci sono le webcam, e quindi collegandovi nel sito diretta rockwave.tk potete vedere questa splendida artista che porta il nome di Elodea Coiro. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Elodea. Ben arrivata a Blu Radio Veneto. Grazie. Benvenuta e soprattutto grazie di aver accettato il mio invito. Ma figurati, è un piacere. Cosa ci racconti di bello allora? Niente, innanzitutto... Chi è Elodea? Chi è? Chi è? Non lo so neanche io chi è, anzi. Elodea, diciamo che è il mio nome d'arte, perché il mio nome reale è Elisabetta Coiro, e lo dico con molto piacere, perché comunque... lo porto con molta fierezza questo nome. Questo nome d'arte è nato ancora 5-6 anni fa, quindi l'ho scelto, diciamo, per essere ricordata con maggiore facilità. Esatto, con un nome un po' particolare, quindi tutto qua. È tutto qua. La musica parte è stata sempre una cosa presente nella tua vita, fin dall'inizio, proprio da piccolissima. Sì, ho iniziato a cantare da piccolissima, quindi 4-5 anni, ma proprio per passione, quindi ascoltavo in radio musica, soprattutto rock, devo essere sincera, perché mio zio mi ha fatto crescere con i Tears for Fears, con Sting, Police, Queen, Michael Jackson, quindi sono cresciuta anche con la buona musica. Cioè, diciamo, i mostri sacri della musica. Eh sì. E poi hai cominciato a studiare. Ho iniziato, sì. Hai studiato canto moderno del 2002, mi pare. Esatto, ho iniziato nel 2002, quindi all'età di 17 anni, in un'accademia a Brescia. E da lì poi questa passione, diciamo, che si è tramutata anche in un lavoro, perché nel mio percorso artistico ho potuto, diciamo, affrontare dei palchi anche abbastanza importanti, tra cui quello di un concerto di Michael Bolton. Com'è stato il momento che hai fatto la corista a Michael Bolton? Sì. Dicembre 2007. Guarda, me lo chiedono in tante tutte le volte. Anzi, è sempre, lo ricordo con un'emozione grandissima, perché innanzitutto per il freddo che faceva, perché era il 22 dicembre, quindi in Piazza Duomo faceva veramente freddo, no, a parte quello. Accompagnata dalla sua band e comunque dall'Orchestra Sinfonica di Roma, quindi erano 80 elementi, quindi era una cosa molto importante, imponente anche, quindi un'esperienza veramente unica, bella, e quello che mi ricordo maggiormente è stata l'umiltà dei musicisti, perché alla fine io e l'altra corista eravamo le uniche italiane rispetto... C'erano le cuffie troppo alte. Sì, siamo un pelo. dimmi. Ho perso il filo. No, parlavi dell'umiltà. Sì, che ci hanno trattate alla fine come se ci conoscessero da 20 anni, quindi con molta disponibilità, quindi anche a studiare i pezzi, tutte queste cose qua. quindi molto bello. E Michael Bolton è un artista, è un artista di altissimo livello, quindi può fare qualsiasi cosa con la voce. Tutto. Appunto. Tutto. Io so che tu hai collaborato con un gruppo che io amo, è stata la colonna sonora della mia vita. Io so tu hai collaborato con i Quattro Sacchiotti Italiani. Si chiamano così? Sì. Hanno preso il nome dallo Sacchiotto, dice una leggenda che non so se sia poi tanto metropolitana. Ma cosa hai fatto con i Pooh? Allora, nel 2009 ho aperto un loro concerto al Forum di Assago. Durante un evento privato, però comunque ho avuto anche modo di godermi tutto il loro concerto, perché alla fine anche loro fanno musica da tantissimi anni, quindi anche lì è stata una, con 10.000 persone davanti, insomma. Non è una cosa da niente, 10.000 persone davanti. Diciamo che prima di salire sul palco c'è quell'emozione che senti solo il battito del cuore, che non tu-tum, tu-tum, e non passa più. E poi dura dopo, anche quando hai smesso di cantare, quindi... Però anche lì una cosa fantastica, veramente. Ti prende completamente. Sì, ti avvolge. Ti avvolge. Proprio la musica e l'emozione che c'è, ti avvolge. Bellissimo. Poi ecco, con i W. Con i W è... Che era un famoso singolo a apripista di W. Please don't go. Sì, quello che ecco. Abbiamo suonato. L'Agostino ha suonato un sacco di volte. Sì, quindi. Si parla ancora di 20 anni fa. Certo. Ho avuto modo di fare un duetto con il cantante dei W a un evento a Milano, quindi anche lì. Bello. Bellissimo, bello, anche bello. Perché io li ascoltavo quando ero piccolina, quindi diciamo che dopo 15 anni riproporsi in questa cosa, insomma, non male. Bene, bene. Maurizio, non senti un elicottero che sta arrivando? Lo senti? Sta portando un disco. Esatto, sì. E non sai che se io potessi vivere con te, con una bugia che mi porterà su giorni che respirerò per te, di scogli che non trovo dentro. Pietà, lo so, non sei realtà, piango in lacrime il mio volto solcherà, deserto di rara beltà, e questa luna scura, anche senza splendore. Lo so, giorni insieme, le mie pene non sono fragili come catene. Certo hai dato, mi son sbagliato, ti ho perdonato e ti ho adesso voglio perdere quei ricordi che mi fanno male e dei tuoi soldi. Mi dispiace ma non so che fare e ti saluto, me ne devo andare. Perdere i ricordi dentro un attimo che ho già vissuto, libera da te, dai gesti Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, l'elicottero è arrivato, anzi è salito, e lì qualcuna si è buttata. Io in vita mia non ho mai sentito che nessun artista lanciasse un disco attraverso un lancio del proprio classico, nel vero senso della parola, dal paracadute. Guarda, fino a un anno fa non avrei mai pensato neanche io, essere sincera. 4200 metri 4500, no, perché hanno detto andiamo un po' più su. Va bene, allora tanto cambia molto, 4500, 4200. E tu hai avuto il coraggio di fare questa pazzia? Sì, e ti dico anche di più che la rifarò, perché diciamo che ho preso gusto per questo sport alla fine. Bello, deve essere emozionante. Bellissimo, bellissimo, davvero. Senso di libertà. Ci credo. Quanto dura più o meno? Ma la durata non è tantissimo. Più o meno in caduta libera, che sono 3000 metri, quindi a 280 km orari sono più o meno, mi pare, 50 secondi, un minuto adesso. E poi la discesa col paracadute dai 1000 metri in giù sono anche lì un minuto. Quindi una cosa molto non rapida, perché comunque non so se lo farei, Maurizio. No, io no, assolutamente. Ma l'idea è partita da te? No, l'idea non è partita da me, anzi ho conosciuto questi ragazzi che, anzi li saluto, che hanno un'associazione che si chiama milancio.com, e quindi hanno detto fai uscire il disco, perché non ti lanci col disco? Io lo faccio davvero, non ci credevano, poi alla fine mi sono lanciata davvero. Ho visto il film. È stata un'esperienza bella comunque. Penso una delle emozionante. Io non ricordo che molti artisti, sicuramente pochissimi hanno fatto questo lancio proprio dal punto di vista discografico, lanciandosi dall'elicottero. Sì, anche perché lanciare un disco, diciamo che è come lanciare se stessi, quindi... È vero. La propria anima, la propria musica al 100%, quindi ho deciso proprio di buttare anche il mio corpo giù direttamente. Quindi... Però una sensazione molto bella. Tra parentesi, sotto il video c'è una mia canzone che si intitola Lasciami Volare, che non l'ho scritta assolutamente, no, pensando a questa cosa, certo. Sembra scritta apposta, quindi... Certo. Ecco. Bello, bellissima idea. Ecco. Complimenti per l'originalità. Grazie che mille. Hai avuto nel lanciare. Poi sei atterrata, poi tra l'altro col disco in mano. Sì. Sì, sono atterrata, ho tirato un sospiro di sollievo. Allora, Elodea questa sera si è portato un chitarrista. Certo. E lo presentiamo anche. Allora, lui si chiama Paolo Marelli. Buonasera a tutti. Buonasera Paolo. Benvenuto Paolo, a Blu Radio. Mi parla poco, dice mi suona. Però colora la musica di Elodea, quello è importante, fondamentale. Sì. Si cerca. Sicuramente non si cerca solo. Elodea, sei meravigliosa, ti abbracciamo forte, Ermanno e Family, un bacio grande. Li saluto assolutamente, Ermanno e la sua famiglia, anzi dopo farò una piccola dedica per loro. Sei libera di fare quello che vuoi, la trasmissione è tua. Quindi... Grazie. Ricordiamo il nostro numero di cellulare, se qualcuno vuole mandare messaggi appunto a te o fare qualche domanda, il 346 23 20 0 33, questo è il cellulare di Blu Radio Veneto per proporre i vostri saluti o le vostre domande. Ripeto, per Elodea Coiro, che è venuta a trovarci questa sera fino alle 22.30, sarà con noi. Hai fatto un anno di duro lavoro per questo disco, questa uscita. Rinchiusa in studio. Come mai questa volontà giusta di far uscire questo album, questo anno di duro lavoro? Perché diciamo che ho tante cose da dire, da scrivere, anche perché i miei testi sono abbastanza ricchi comunque, quindi toccano diverse tematiche. E come ogni cosa, una canzone non nasce in un giorno, quindi ci vuole un po' di tempo sia per la composizione, il testo, per il canto, per gli arrangiamenti, quindi... Non è una cosa semplice. No, non è semplice, però comunque un anno, 15 brani... È appunto un disco di un esordiente, 15 brani, è un bel coraggio, sei stata coraggiosa. Sì, poi l'anno scorso comunque ho fatto uscire un EP di 4 brani, quindi che sono contenuti all'interno di questo disco. Sono sempre disco. 15, insomma. In sì, caso. Comunque sono sempre 15. Sì, non è mica semplice, è una cosa abbastanza inusuale. Di solito un musicista, la prima volta che incide un disco non arriva mai oltre i 10 pezzi, di solito. E invece stavolta abbiamo azzardato. Esattamente. Il primo ne conteneva 4, quindi ho fatto un salto un salto di qualità per 3 volte. Sì. Diciamo che sarebbero 11 allora, più 4, giusto? In teoria. Sì, esatto. Sì, poi all'interno del disco c'è una versione alternativa di un brano e la versione della canzone che dà il titolo al mio disco, che si intitola La Regola, quindi altre due versioni, quindi in totale i brani sono 12, uh-huh, con tre versioni alternative. Da cosa ti sei ispirata questa La Regola? La Regola, perché la mia regola di vita è non avere regole, quindi l'ho intitolata così. Io vivo molto alla giornata, quindi sempre con i miei sogni, i miei obiettivi, però senza mai pensare troppo in un futuro lontano, portando avanti il mio lavoro giorno per giorno. Quindi poi alla fine di quest'anno, che ho iniziato alla fine questo lavoro, è iniziato ottobre del 2009, e l'album in sé è stato terminato per gennaio, quindi un anno e due mesi. Quindi poi il lavoro di ogni giorno ha portato a questo disco, e quindi per quello ho scelto il titolo La Regola, praticamente. Esatto. Un assieme di, cioè, ci sono dei pezzi introdotti dal piano, ci sono dei pezzi introdotti dalla chitarra acustica, c'è un momento pop, e non solo il momento pop, c'è un po' di melodia e c'è anche un po' di accelerazione nel disco. Sì, ci sono stati toccati diversi, alcune particolarità, cioè che toccano diversi stili, quindi alcune sonorità un po' più R&B, alcune pop, alcune più melodiche, ecco, diciamo, è stato fatto per non avere, diciamo, dei brani che assomiglino anche ad altri, ad insomma. Sì, ho capito, ecco, ho capito. Ecco, sì. Vuoi essere originale, giustamente. Sì. Poi all'interno del disco ci sono anche delle collaborazioni, tre brani cantati insieme al mio produttore e un altro brano cantato altri con due ragazzi rapper. Ho capito. Quindi ho voluto inserire anche questo brano, quindi anche permettermi di cantare un brano all'interno con due artisti rap, quindi... che tocca questa canzone che si intitola Una parte di me. Appena me l'hanno proposta, diciamo, mi è piaciuta subito, perché tratta una tematica molto sensibile, perché quella degli incidenti stradali. Quindi io direi di ascoltare qualcosa adesso, Certamente. Sì. Ci fai sentire la tua bella appunto, voce? Appunto, iniziamo con la prima canzone, che è La Regola. Ok. Appunto. Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Ho messo un freno alle parole che son fantasia. Ho reso pubblico il mio dolore senza ipocrisia. È una regola che devi chiedermi se potrò esprimermi senza perdere ogni istante che sia solo colpa mia della gelosia. Uno per proteggermi, due per rispettarmi e tre per farmi vivere con te. Uno per distinguerti, due per poi stupirmi e tre per farmi vivere con te. Parti di me che vuoi scindere, mille colori da stingere, cento concetti da esprimere. Ennesimo giorno da perdere, altre due ore che penso a te, senza risposte da scrivere. Tra le lacrime che non ho pianto per te, la mia regola è non illudere. Un istante che sia tutta colpa mia, scivolandomi via. Uno per proteggermi, due per rispettarmi e tre per farmi vivere con te. Uno per distinguerti, due per poi stupirmi e tre per farmi vivere con te. Di mille cieli che non stanno a esplodere dentro una stella che non è più figlia del suo azzurro cupo, che si estende sopra limiti e confini di una guerra che non ho mai sopportato l'esistenza, la pazienza nuderò. E poi mi espanderò. Uno per proteggermi, due per rispettarmi e tre per farmi vivere con te. Uno per distinguerti, due per poi stupirmi e tre per farmi vivere con te. Essenzialmente non approvo falsi scudi che non rendono l'idea e tantomeno l'apparenza di chi sei. Se ti accontenti sarai tu pagliaccio inutile, io pubblico che ridere non sa. Uno per proteggermi, due per rispettarmi e tre per farmi vivere con te. Uno per distinguerti, due per poi stupirmi e tre per farmi vivere con te. Uno per proteggermi, due per rispettarmi e tre per chiedermi se potrò esprimermi senza perdere un istante che sia tutta colpa mia della gelosia. E vai, hai rotto il ghiaccio adesso, sei ho più rotto tranquilla. Il ghiaccio. Sei più tranquilla adesso. Sì, sì, sì. Non è mica semplice cantare un pezzo simile, è molto veloce. Dopo ti sei fermata, alla fine hai tirato il fiato, ma sei partita come il tubo. Sì, perché non ha pause, quindi. Esatto, è proprio è difficile cantarlo questa in chiave assolutamente acustica. Non sì, è anche vero? Difficile, sì. Infatti hai visto che mi sono tolta anche le cuffie, sì. Per ascoltarsi. Ma è bello così, vuol dire che c'è spirito, c'è feeling, c'è, sì. C'è trasporto, questo è importante. Assolutamente sì. Mi conosco da quando scrivo e canto la mia musica, mi specchio e trovo un senso a tutto quello che mi circonda. Sentirmi unica guardando negli occhi di chi mi ascolta e so che prova ciò che sento. In questo disco ci siete tutti voi, voi che fate diventare Elodea non una persona ma uno stato d'animo, letteralmente le tue parole. Sì. Che trovate nel disco. È un pensiero che ho voluto scrivere perché... Diciamo che ho scritto questo testo, questi testi, queste canzoni guardando me, però tantissime parole mi hanno ispirato dei fatti esterni, quindi a persone che incontri camminando sul treno, in macchina, e quindi tanti pensieri che poi hanno racchiuso queste parole. E il tuo stato d'animo. Sì. Benissimo. Appunto. Che importanza ha avuto il produttore nella stesura dell'album praticamente, Elodea? Che mano ti ha dato? Tantissimo, perché comunque... Intanto citiamo il produttore. Assolutamente, Giancarlo Prandelli, quindi queste canzoni sono nate assolutamente grazie a lui, pensieri miei e suoi, quindi canzoni fatte a quattro mani, quindi anche nella parte del testo, della melodia, quindi una collaborazione completa. Che ti aveva quindi... visto lui un concorso praticamente. Sì, mi hanno invitato a questo, diciamo, questo festival, sì. Concorso nel 2009 a Brescia e... Avevo vinto quella serata e quindi poi c'era in palio di cantare una canzone per beneficenza, quindi una piccola parte, poi da cosa nasce. Beh, cosa. Nasce cosa, certo. È iniziata questa collaborazione ancora un anno e mezzo fa. E quindi si è costruito il discorso di questo progetto che poi è andato avanti e finalmente è sfociato nel disco. Esatto. Perché tu hai fatto una corista spesso e volentieri, però volevi giustamente... porre avanti un discorso tuo personale. Sì, perché comunque credo che scrivendo canzoni proprio si possa esprimere di più, emozionare di più gli altri, perché comunque sono cose che nascono da noi stessi, quindi ok cantare cover, perché lo faccio sì. Tuttora, però comunque cantando, scrivendo e canti canzoni tue c'è un'altra emozione. Sì, è un'altra cosa. È un'altra, diciamo. Cosa, è un'altra cosa. Esatto. E io non oso pensare allora agli atleti del villaggio olimpico quando ti ascoltavano. Oh, perché lei oltre a tutte le cose che ha fatto, è andata a suonare anche al cantare, meglio dire, alle Olimpiadi. Eh sì, nel 2009 diciamo che ho intrattenuto gli atleti. Non pensavo male. No. Nei villaggi olimpici ero insieme alla compagnia teatrale del Teatro delle Erbe di Milano e quindi... A Torino sì, esattamente, ero sempre nella sede di Bardonecchia. Però poi mi sono spostata, quindi facevamo degli interventi sia di pomeriggio che la sera. E quindi è stata un'esperienza bellissima perché poi appunto è un fatto unico, le Olimpiadi di Torino invernali. In Italia almeno capitano una volta ogni tanto. Esatto, quindi è stato veramente molto molto bello anche per lo staff con cui ho collaborato, quindi un team. Ma cantavi canzoni tue? No, lì all'epoca no, perché è stato esattamente 5 anni fa. Il 2006, 2006. Sono già passati 5 anni. No, lì facevamo degli spettacoli, quindi dei piccoli musical, degli sketch, dei momenti di piano bar, quindi ballavo anche, quindi cose un po' di tutto, quindi uno spettacolo un po' a 360 gradi. Quindi possiamo dire che hai fatto, citando una parola che spesso si usa nei musicisti, un po' di gavetta, una gavetta importante però. Sì, penso che sia molto importante, anzi penso che la gavetta non... Non fa mai male, secondo me. Non fa mai male e non si smette mai di imparare comunque, perché comunque... se una persona pensa che ha già imparato tutto... No, non è così. Che cosa ci resta da fare, anzi. Esattamente, quindi sì. Costruisce, si costruisce facendo la gavetta, sicuramente. Si costruisce, sì, il personaggio, si costruisce il modo di suonare, di cantare, di interpretare, di, sì, farsi avanti il pubblico, è una cosa molto importante. Sì, sì, sì, assolutamente. E poi, non contenta, si è data anche i cartoni animati. È vero, sì. Alla Disney. Ah sì, quello ho fatto, sì, quella, ho fatto una piccola cosa, devo di essere sincera, ho cantato nella fiera, nello stand della Disney, quindi cantando tutte le colonne sonore dei cartoni animati, un sogno che avrei voluto fare da piccola, invece l'ho fatto, vabbè, comunque a 22 anni. Sempre giovane, giovanissima, sì. Beh, è giovanissima, sì, anche adesso. Sì, appunto, è giovanissima anche adesso. No, perché poi comunque le canzoni della Disney racchiudono quell'emozione che anche andando avanti con gli anni resta sempre. Certo. Però credo che l'emozione più grande sia stata quella di cantare con Michael Bolton. Assolutamente sì. Anzi. Adesso ci canti per noi, non è la stessa emozione, ma insomma ci canti per noi e per i tuoi ascoltatori, anzi per tutto il mondo, perché siamo in streaming e quindi ti stanno ascoltando e vedendo in tutto il mondo. Sì, volevo fare una dedica particolare per questa canzone. Certo. Se questa persona sta ascoltando, cosa che penso, mm-hmm, alla mia cara sorella dedico questa canzone. Che si chiama? Lei si chiama Donatella e la canzone che dedico è Senza di me. Perdere tutto così in un istante, nella notte nei tuoi sogni sono vivi i tuoi ricordi, come un soffio tutto cade, crolla sopra di te, è come un incubo che sale, il suo regista è anche l'attore in un teatro che non vuole stare senza di me. E tutto gira senza di me. Senza di me, un passo e un altro lo so fare, il sole mi vuol salutare, un'abitudine mio amore. So che senza di me, lo so che ci puoi stare, so che non ti può far male, saprai stare un altro giorno anche senza di me. La tua vita senza il sapore di me. Senza il sapore di me. Chiudo la porta al mio dolore, non ero un altro la passione. E da quel giorno sarai tu a restare senza di me. Ora no, non ti voltare, prosegui dritto e non sbagliare. Ora sei tu che vivrai senza di me. Dolce, dolce, sempre dolce. Tu sai, hai una voce che è veramente dolcissima. E, che dire, da cosa nasce questa canzone? Allora, diciamo che o sono troppo curioso? No, no, no, no, adesso te lo spiego perché è un po' complicato. Diciamo che tantissime volte mi è capitato di pensare, cioè di vedere il mondo o di vedere una persona cara come potrebbe vivere senza di me. E questo diciamo che mi ha un po'... non so come spiegarlo. Il fatto che una persona possa vivere senza di me. Infatti l'ho dedicata a mia sorella perché lei non credo che possa vivere senza di me come io non posso vivere senza di lei, quindi... E è nato un po' per, diciamo, per rendersi anche un po' importante agli occhi degli altri, quindi è dedicata anche a tutte le persone che sono uniche e importanti, certo. E quindi ecco, una cosa di questo tipo. Vi ricordo che questo è sempre Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo il nostro numero telefonico che è lo 049 875 6423, se volete chiamarci in studio. Se invece volete mandare qualche sms a Elodea, è il 346 23 20 033. Vi ricordo lo streaming audio www.bluradiovento.it, cliccando sotto la famosa scritta streaming, c'è la freccia nera, quella è indimenticabile ormai, cliccando lì si sente la radio in diretta 24 ore su 24, e questa sera come in tutti i live c'è anche la diretta con le webcam, che basta andare su diretta.rockaway.tk, oppure più semplicemente se andate nella recensione dedicata all'artista in questa sera, ovviamente con Elodea Coiro, io sbaglio, ci metto sempre lei, Elodea Coiro, sotto la recensione c'è la scritta streaming video oppure streaming audio, basta cliccare lì e si entra nella pagina che dà accesso appunto alle webcam o al sentire l'audio. Fra le tue tante cose che hai fatto, ho letto una cosa interessante: hai partecipato al tributo ufficiale a Zucchero un po' di anni fa, nel 2008. Sì, diciamo che è stata fatta anche una bellissima serata con uno dei suoi chitarristi, sì. Mario Schiliro. Esattamente, sarà... Massimo Greco alla tromba c'era praticamente. Sì, una serata stupenda, quindi ho fatto un paio di concerti con loro in qualità di corista, quindi anche lì diciamo i pezzi di Zucchero sono ben impegnativi. Sono difficili. Soprattutto anche per le parti, nelle parti dei cori. Esatto, poi sono molto legate al blues, no? Sì, ecco, sì, sì, esattamente, sì. Quindi non è facile praticamente. No, però è un'esperienza nuova. Anche assolutamente, quelle... poi collaborare con certi musicisti diciamo che non capita tutti i giorni. E poi un'altra cosa interessante, sempre leggendo nella tua biografia, nel 2008 hai partecipato ai Falsi d'Autore. Sì, allora è stata una manifestazione fatta in provincia di Brescia, sì. Quindi con quattro sosie ufficiali appunto di... Renato Zero, Vasco Rossi, anche Steve Tyler, sì, che è identico, ho una foto poi su Facebook e mi chiedono tutti ma è lui. È identico, con dei turnisti di tutto rispetto, quindi c'erano turnisti di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, e quindi anche quella è una serata bella, interessante, sì. Anche quello serve a crescere, secondo me tutto serve a crescere musicalmente parlando. Sì. Tu praticamente il tuo lavoro fare l'artista, il musicista, il cantante. Sì, diciamo che riesco a mantenermi di questo, quindi diciamo che sono abbastanza privilegiata, devo essere sincera. È un bel modo di lavorare. Sì. Anche perché lo fai con passione, quindi di conseguenza tutto quello che viene è ben accetto. Sì, è vero. È vero. Tutto questo è stato raggiunto con tanto lavoro, tanti sacrifici, quindi non è una cosa semplice assolutamente. Però diciamo che ce l'ho fatta a distanza di da quando ero piccola che sognavo di fare la cantante, e diciamo che adesso pian pianino diciamo non lo vedo come ancora un traguardo, devo essere sincera, perché non mi sento arrivata assolutamente, anzi qua c'è da imparare ancora tanto, però già il fatto che io riesca a mantenermi con la musica, insomma. Ne hai da imparare anche perché sei giovane, quindi sì. Ne hai di strada davanti. hai qualche, adesso che è uscito il disco tuo nuovo, sì. Hai qualche tournée in programma, qualche concerto in giro per l'Italia? Sì, farò la presentazione alla Feltrinelli a Brescia, sì, il 12 adesso, e una serata appunto a Brescia con la mia band, quindi pezzi miei e anche delle cover. E quindi la prima tappa è quella, poi invito tutti a seguirmi su Facebook perché aggiorno sempre le date o sul mio sito internet o nella pagina Facebook. Una band acustica o una band elettrica è l'idea? Ci saranno dei momenti alternati. Sì, momenti acustici, quindi la band è composta da batteria, tastiere e basso. quindi c'erano dei momenti acustici, nel senso un po' più lievi, un po' più dolci, e momenti un po' più tirati. Esatto, chiaramente. Un po' più carichi. Un po' più rock, che i tuoi genitori ti hanno dato, esatto, l'input di questo. È vero. Facciamo ascoltare ancora la tua voce? Sì. Sì, sei qui per questo poi. Esatto. Allora, cosa pensavi di fare in questo momento? Allora, il terzo brano che voglio farvi ascoltare si intitola Persa. Ok. Tua e credo di non volerne indietro. Ti chiederai perché ti sto scrivendo. In realtà non lo so. Forse perché lunedì, chi lo sa come andrà, come ogni giorno del resto. E non vorrei trovarmi a non poterne più. Queste sarà il sogno che farai, talmente intenso non potrai scordarmi mai. Mi sto scontrando con me stessa, con le emozioni che sento, non mi sto tirando. Capisci certe cose, non ci si può far nulla, continua a sbatterci la testa. E conoscendomi anche in questo caso non smetterò. E non smetterò. Non mi vergognerei di volerti bene, riesco solo a guardarti negli occhi, un sogno che non può finire, una vita che può continuare, lo sai con le parole non son brava e non ti parlerò, lo sguardo parla da sé. Benissimo, abbiamo sentito Persa, ci hai messo un po' di grinta anche in questo pezzo. Sì, questo qua è un pezzo letteralmente autobiografico al 100%, quindi diciamo che è uno dei pezzi che preferisco cantare. Con una certa energia, mi pare giusto. Sì. E questa, dobbiamo sottolineare, questa è acustica, questa è una serie assolutamente acustica, però l'energia c'era, era fuori. E quindi con la band darei ancora più vigore. A voglia. Chiaramente. Sì, per forza. È giusto che sia così. Dimensione acustica sì, però quando c'è la grinta c'è la grinta. E mica detto che la dimensione acustica non sia minore di potenza e no, di intensità rispetto a quella elettrica. Assolutamente. Secondo me è molto più intima, proprio è più bella l'acustica, secondo me. Sì, è vero. Crea un'atmosfera un po' particolare. Sì, sì, perché appunto così, quindi è una cosa per chitarra e voce, una cosa senza poi così. È proprio l'artista vera che senti. Che senti. Sì. È bello, secondo me è bellissimo suonare in acustico perché proprio la senti tua. Posso immaginare, io non sono cantante, non mai ci ho provato, ma posso immaginare che quando canti in queste veste credo sia ancora più sentita la canzone perché cerchi di entrarci dentro. Sì, proprio si crea un'atmosfera un po' particolare, quindi molto intima appunto come hai detto tu. quindi assolutamente. Dobbiamo sottolineare il lavoro di Paolo, che è indispensabile. Assolutamente, assolutamente. Senza di lui, senza non... è impossibile. È bello cantare anche a cappella, però con la chitarra è meglio. Sì, comunque accompagnarsi da un strumento. Esattamente, l'accompagnamento giusto. Sì. Ringraziamo anche la Chiara, che qui sta facendo le fotografie, nonché curatrice della webcam, che sta andando in onda adesso. Ok, benissimo. Bene. Qualche dato tecnico per trovare le tue cose? Sì, allora, direttamente basta collegarsi sul mio sito internet, che è www.elodea.it. Ci sono i vari collegamenti alle pagine sia MySpace che Facebook, e i vari collegamenti a tutte le piattaforme digitali per trovare appunto il mio disco, La Regola, quindi su iTunes e quant'altro. Oltre ai concerti, chiaramente. Sì, tutte le date. Sul mio sito ci sono appunto, si possono vedere dei video, i miei video ufficiali delle mie canzoni, e poi anche qualche esperienza live. Ho capito. E delle mie fotografie, tutte le news, quindi concerti, appuntamenti in radio, eccetera. Certo. Se uno vuole acquistare il tuo disco, anche nei concerti lo può fare, chiaramente. Sì, assolutamente. Benissimo. E quel vestito bianco che c'è nel video? È ti piace? Sì, sì, moltissimo. Molto bello. Quel video è il video di Perdere i ricordi, quindi è stato scelto, diciamo, quell'abbigliamento perché per creare una sorta di... non di purezza, però comunque una sorta di sogno, perché è come se mi svegliassi da questo sogno. Siamo tutti curiosi dove l'hai registrato, dove l'hai fatto, il posto. È in provincia di Brescia, però non svelo dove. è un bosco bellissimo, con un torrente, con l'acqua congelata perché era veramente fredda. Però un posto magico. Bello, perché sì, me l'hanno detto in tanti che è un posto magico dalle immagini. Lo potete tranquillamente vedere su YouTube, quindi sì. Il video è Perdere i ricordi. Ma anche l'altro è bello, con tutte le tue ragazze. Sì. Sono tre video un pochino diversi. Uno da sì, ma appunto uno è stato girato in studio, l'altro metà in studio, metà in esterna, anche con un pezzo di balletto. E il terzo, essendo una canzone molto intima, c'ero solo io, quindi appunto che cammino. A me non è dispiaciuto neanche il video che presenta te praticamente, cioè è quella lo studio, sorta di... sì, che alla fine ci sei tu. No, che alla fine ci sei tu che dici io sto crescendo grazie a voi, eccetera. Ah sì, quella... Sei assieme un fonico, mi sembra. È il mio produttore. Ma ci sono due persone. Sì, l'altra persona si occupa della parte del mio sito internet. Quindi, anche quello è carino, mi è piaciuto, è sì, simpatica. Quindi l'idea. Una sorta di presentazione, esatto, diciamo, del progetto che riguarda me. Che rapporto hai col tuo produttore? È bello, sì, è bello, ti lascia, sincera. Ti lascia libera di fare quello che vuoi, nel senso musicalmente. Non tanto, ogni tanto mi sgrida, però diciamo che si è creato un bellissimo rapporto, quindi mi sono anche molto affezionata a lui, oltre che musicalmente parlando. Quindi la musica, diciamo, che lega anche le persone, perché la musica è fatta di emozioni, quindi scrivendo canzoni con lui è quasi impossibile, diciamo, non affezionarsi, quindi non diventare amici, quindi è una cosa, penso, normale. Gli arrangiamenti li avete scelti insieme, ha avuto tu un'idea, il tuo produttore ha limato questa idea, l'ha allargata, come è andato? Diciamo che a volte idee mie, idee sue, quando non mi andava qualcosa bene glielo dicevo, idem faceva lui con sulla parte magari della melodia, del testo, quindi correzioni un po' da parte. Quindi un lavoro continuo fra di voi, uno scambio continuo di esatto, opinioni? Sì, assolutamente. Okay. E l'etichetta invece? E l'etichetta è sempre sua. Perfetto. Si chiama? GN Records. GN Records. Quindi giusto per dare tutti i dati. Per esatto. Sì, e il tuo numero di cellulare privato glielo diamo? No, però io rispondo tranquillamente su Facebook. Beh, perché sono sempre senza soldi sul cellulare. Quindi. Ecco. Ho capito. Vuoi fare un po' di pausa o vuoi suonare ancora? Cantare ancora? Scegli Paolo, cosa dice Paolo? Come vuoi tu. Facciamo? Cosa vuoi? Allora, adesso farò la canzone Lasciami Volare, che in teoria sarebbe un duetto, e oggi la farò da sola. Bene. Per la prima volta, quindi vediamo come esce. Come esce. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dimmi che non restare, anche se ti pregherò, dimmi che la notte è lasciami sognare in pace. Sai che poi ti seguirò. Prestami la tua certezza che domani ci sarò. Lasciami volare sopra questa vita che non c'è. Tu lasciami volare abbraccia mentre salti in nome mio. Quelli che ho perso son partiti, li ho portati via con me. Son convinta che non te ne andrai nello spazio che ti costruirò. E adesso sei con me e non al limite. Se fosse qui il confine verso l'impossibile, avrei dipinto un cielo senza azzurro e logico, e brillerai di luce come un sole splendido. E volerai, continuerai. Gli sbagli e torti non ti tocchino e così tu lo farai. Paolo ha sostituito validamente la seconda voce, no? Sì. È stato bravo. Bravissimo. Chi è che canta questa canzone in seconda voce? Giancarlo. Giancarlo. Sempre il mio produttore, fa tutto. Fatto tutto. Sì, canta tre pezzi, mi pare. Sì, esatto, visto che canta molto bene, ho detto includiti nel mio disco, quindi anche avere dei duetti. Diciamo, sì, e questo è un pezzo un po' particolare nel disco, poi chiaramente questa è una versione acustica fatta da Paolo e da te, perché ha una specie di stop and go. Si ferma e poi riprende, sì, in tre momenti diversi. Sì. È molto positivo, non è una cosa usuale, è un po' inusuale, ma interessante, sistemato in quel momento. Là. Come mai hai avuto questa idea, te e Paolo, per te il produttore? Diciamo che per questo arrangiamento, questo qua è un pezzo interamente suo, io qui ho contribuito nel testo. Quindi diciamo che ha pensato degli arrangiamenti, più che altro queste pause un po' sullo stile R&B. Sì, ma era interessante. Quindi, è ben riuscito secondo me. Sì, perché dà molta dinamica, sì, è vero, alla, esatto, canzone. Poi invito tutti a ascoltare il pezzo cantato da lui, appunto si trova, si può sentire su iTunes. È molto particolare perché comunque si crea quella sorta di ritmo e comunque di una parte di ascolto molto piacevole. Esatto, ma lo verrà a cantare anche dal vivo con la band, il tuo produttore, questo pezzo? Oppure? Sì, è stato fatto anche la prima data che ho fatto presentazione ufficiale, c'era sia Paolo che suonava, certo. E il produttore che ha fatto questo duetto con me. Questo per me, posso dire una mia idea, sì, potrebbe essere anche un secondo singolo potenziale. Sì, no? Mi fa piacere che... Io l'ho sentito così, oltre al singolo che abbiamo già citato, però questo ha tutte le caratteristiche per essere un altro pezzo trainante dell'album. Tanto è sistemato in una parte quasi centrale, mi pare. Sì, nel disco, sì, perché è la traccia numero 5. Sì, non è quasi centrale, però sì, dopo quattro tracce, di cui due al piano, secondo me, l'uso del piano, ecco, mi interessa sapere l'uso del piano, che spesso e volentieri si sente nel disco. Diciamo che è una delle parti dominanti. Sì, esatto, sì, il piano inizia molti pezzi. Sì, questa qua è una scelta appunto di Giancarlo. che tu hai provato chiaramente. Sì, sì, assolutamente. Certo. No, perché è interessante. Assolutamente. Sì, credo che... lo facciamo ecco. Sentire. Ah, sì. Ecco, esatto. Anche se ti pregherò, dimmi che la notte è un fine. Se ci sei non finirà. Lasciami sognare in pace. Sai che poi ti seguirò. Proprio classica R&B. Sì, oh, che bella sorpresa. Tra l'altro è un genere di musica che piace moltissimo. Sì. R. Kelly, per esempio, è sì, uno sì, dei sì. miei idoli. Insomma. Mi piace molto l'R&B. Ascolteremo quindi, magari. Quindi decisamente un brano indovinato che, come abbiamo già ripetuto, potrebbe trascinare come secondo singolo l'album. Bene, bene, allora lo farò presente su. Ma ti stai ascoltando magari? Ma penso di sì, lo saluto così in caso poi comunque... Sì, poi si registra, quindi... Infatti, sì. Lo saluto assolutamente. Ecco, allora fai la proposta e dici, vale, possiamo farlo con... Giancarlo, questo sarà il secondo singolo. Le idee vengono volare. Fuori così, giustamente, secondo me. Sì. Da impressioni, da sensazioni, queste sono le idee. Io invece ci farei anche sopra un bellissimo video su questa canzone. Sì, sì, perché già, è molto romantica, molto dolce. Mm. E quindi penso che creando le giuste atmosfere anche dal punto di vista visivo sia di veramente bellissimo da fare. Ci penseremo. Intanto questo brano l'ho usato appunto per lanciarmi dal cielo, quindi lasciami volare proprio. Certo. Ah, ma è bello. E quindi ho scelto questa canzone. Ma l'hai presentata in qualche... A parte quel video del lancio, diciamo, del disco, sì. Ma l'hai presentata in qualche altra... veste questa canzone in qualche altro no. Comunque la sto portando in giro come porto anche le come altre, le altre insomma sì, assolutamente sì. La canto tranquillamente No pensavo ci avessi in modo particolare no però lo faremo suggerimento vostro bene, assolutamente benissimo sono il 23:54 Agostino quasi sì. quasi 54 sì. Allora, cosa vogliamo farle riposare? Sì, facciamo riposare un momento sia Paolo sia la nostra vocalista. Un momento riposo. Cantante. No, esatto. Se vuoi suonare ancora dal vivo o cantare dal vivo, per me va benissimo. Cioè, come vuoi anche te. Per me, quindi. Vuoi fare qualcosa dal vivo ancora? Sì, dai. Dai, facciamo un altro pezzo. Così mi piace la decisione. Allora, questa la dedico a Ermanno, che è una delle sue canzoni preferite, si intitola Baciami. Ok. Okay. sapessi che al mio gatto ho parlato un po' di te. Se nella notte ti potesse raggiungere, potrebbe dirti quel che penso. Sono solo favole, parole, nuvole. Ho preso a pettine l'arcobaleno e ho visto te. Sembravi fragile, a volte inutile, senza un motivo che potesse farti ridere. Baciami ora adesso che la luna ha fatto effetto sotto un tetto di farfalle che ci coprono. Ed è un dispetto per coloro che non si appartengono. Baciami nel dubbio, baciami anche se poi saranno gli angeli a ridere di noi, che siamo poveri ma ricchi nel rispetto del valore che l'amore ha dato a tutti noi. Sogni, quanti ne avrò? Questa è la voce di Elodea Coiro che è venuta a trovarci questa sera, questo giovedì 7 aprile 2011. Siamo completamente e totalmente in diretta, sono le 21:58 minuti in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino Spolavore assieme a Maurizio Calzavallo, il mio fedele compagno. Stiamo cercando di capire, di farvi conoscere ancora di più questa splendida artista che ha una voce dolcissima, mi è piaciuta subito la prima volta che ti ho sentito su YouTube, ti ho trovato per caso poi. Sì, sì, sì. Ah, è vero, perché non ricordo poi come siamo, mi hai richiesto tu l'amicizia, mi hai preso sì, Facebook. Sì, probabilmente sì, poi ci siamo scambiati delle mail, insomma, e poi sì, sì, sì, è vero. L'invito eccetera eccetera. Quindi mi è piaciuto subito, questa voce è così particolare, così dolce, veramente colpisce, entra dentro, almeno per quanto mi riguarda, per i gusti miei ovviamente sto parlando. Io amo molto questo genere di musica, quindi basta che sia fatta con i dovuti criteri. Esatto, sì. Questo è un pezzo decisamente, secondo me, il pezzo quasi più pop di tutto l'album, a mio parere. Io l'ho sentito così. Ce ne sono altri, però questo è decisamente il più pop, accattivante, non dico facile, facile perché è accattivante, entra immediatamente in circolo, e quello, io ho avuto questa sensazione, quindi si sente subito, si prende immediatamente una cosa che cosa anche dici? Questa canzone mi piace molto, baciami. Diciamo che l'ho scritta un attimino, sono quei pensieri un attimino più leggeri che ho, quelli un attimino che catturi anche, immediatamente, sì, anche quelli più simpatici che ho, perché non bisogna essere sempre tristi, insomma. No, assolutamente no. Quindi è una canzone, diciamo, solare, positiva. Sì, esatto, esattamente. E l'Odea come cattura una canzone? Come fai una canzone? Scrivi gli appunti su un libretto? Dicevo, un artista era Finardi, quando lui non aveva, una volta non esistevano i registratori piccoli, eccetera. Sì. Lui era sul, penso che volentieri si viaggiava in treno, perché non viaggiava in macchina, viaggiava in treno, e quando aveva quell'idea prendeva un appunto e scriveva, e cantava in treno nello scompartimento. Anche io faccio così. Le idee mi vengono di notte mentre dormo, quindi fortunatamente esistono i cellulari adesso. Esatto, quindi adesso è un'altra cosa. Registro, però ho sempre il mio quadernino, mi metto in borsa, perché tantissime volte anche camminando mi viene un'ispirazione, quindi anche un paio di frasi che posso riutilizzare. Certo, è giusto, la tecnologia sì, però il vecchio block note funziona ancora, lo scrivere assolutamente. Esattamente. C'è chi ha l'ispirazione facendo la spesa, anche mi hanno detto una volta qui un artista. È vero? Sì, sì. Io ho l'ispirazione facendo diverse cose, quindi anche la scorsa sera camminavo in centro nella mia città e mi è venuta ispirazione, me ne sono scritta 5 o 6 righe, quindi dipende, anche camminando, facendo la spesa, facendo la pulizia. Ma lo devi scrivere subito, perché poi altrimenti ti dimentichi. Io mi dimentico subito, anche di notte quando mi viene una melodia in testa devo registrare, perché altrimenti la mattina, ciao, è andata tutto. Sparisce tutto. Anche tu sei notturna? Notambula. Sì, assolutamente, assolutamente. Di notte, diciamo che è il momento che leggo al silenzio, quindi dove escono tutti i miei pensieri, tutta la mia anima, diciamo, esce. Ma chissà perché la notte. La notte ha il suo fascino. La notte, sì, assolutamente. tutte le canzoni o i testi sono stati scritti più che altro dalle 8 di sera in poi, quindi c'è meno confusione. Sì, c'è meno confusione, quindi anche c'è anche meno caos in giro, quindi è anche tutto quello che ci circonda che magari si ferma, e quindi c'è possibilità che qualche pensiero in più esca. Certo, certo, giustamente. Cosa dici, Maurizio? Facciamo riposare un momento. Sì, sì, dai. Sì. Dai, facciamo riposare un secondo, facciamo sentire un pezzo da disco adesso. Cosa hai scelto? Hai scelto, ti ricordi? Sì, Insostituibile. Perfetto, bravissima. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'era un attimo bloccato, hai visto? Sì, sì, cose capitano con le macchine, qualche volta succede. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, qui il piano è molto, possiamo dire, il protagonista quasi assoluto, è il 99%. Sì. L'idea. Volutamente così, perché il piano doveva proprio trascinare il pezzo, doveva essere così, decisamente. È la traccia numero 2, quindi è una traccia importante, che viene subito dopo la traccia numero 1, che è l'apripista del disco. Sì, e quindi lo reputo comunque un brano molto importante per me, questa canzone, quindi anche molto piacevole, quindi ho constatato che piace anche a tantissime persone, perché comunque la porto già in giro da un anno questo brano, era già presente. Quindi nel qualche pezzo li avevi già portato in giro? Sì, nel o vecchio... dei quattro che avevi fatto. Sì, perché a maggio del 2010 ho pubblicato questo EP con quattro brani, quindi certo. C'era dentro questa canzone insostituibile, ancora non c'è, Senza di me e Persa, che ho proposto prima in versione acustica. Molto pesante. Nel senso positivo del termine, pregnante, cioè con una certa grinta. Insomma, sì, anche se erano quattro ho voluto farmi sentire subito. questo è positivo. Sì, quindi praticamente certi pezzi li avevi già proposti dal vivo, li hai leggermente cambiati rispetto alla stesura ufficiale poi del disco? Ma nel disco oppure... No, quando hai inciso i pezzi, hai inserito quattro pezzi sì. precedenti, li hai cambiati o sono rimasti uguali? No, sono state fatte delle modifiche, a livello di arrangiamento, però non di... Di sostanza. A livello cantato, sì, qualche arrangiamento... Che andava meglio così, doveva essere limato il discorso. Sì, sì. Le cose si possono sempre migliorare. Esattamente. E una cosa ti voglio chiedere, dopo passerò la parola ad Agostino. Mm-hmm. Hai qualche pezzo lasciato nel cassetto? Fermo. Sì. Sì. Ne ho tanti. Questo è positivo però. Sì, . Sto lavorando anche altri brani, quindi io continuo a scrivere, anzi, perché... Certo. Sì, qualche brano l'ho lasciato a parte. Perché non è che non fosse... Perché non era il momento giusto, forse. Sì, e quindi magari alcune canzoni hanno bisogno di avere un pochino più di tempo, altre magari sono più immediate. Ok, decisamente. Quindi più o meno in termini di tempo, quando pensi che uscirà il disco nuovo? Sto già lavorando, però non mi do un tempo perché, certo. Non lo so, adesso vado avanti con questo, quindi penso per l'anno prossimo, comunque, quindi inizio del 2012. Un centinaio di chilometri te li fai anche l'anno prossimo? Assolutamente sì, ma oggi ero a Milano, quindi oggi ho fatto 500 km, quindi però avanti e indietro. Quindi. Sei andata a suonare a cantare? Vengo volentierissimo. Sei andata a cantare a Milano? No, peraltro. Allora ti aspettiamo qui per il disco nuovo. Va bene. Guarda che ti hanno sentito tutti, quindi una promessa. Va bene, ci sono i testimoni. 22.08, noi vogliamo sentire la voce tua, noi vogliamo sentirti cantare. Cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, avevamo pensato io e Paolo di fare un brano non mio, quindi una cover. Uh-huh. Quindi faccio sentire come vedo, diciamo, nel mio mondo, come vedo le cover, ecco. Avevamo pensato di fare un pezzo anche abbastanza impegnativo, canzone di Michael Jackson, wow. Man in the Mirror. Bellissima. Ok. Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I tear up the color home, my favorite to go. This one that blew in my mind. I can see in the street when enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A sign of disregard, a broken by the top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause we got nowhere to go. That's why I wanted to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking if the train is way, when no message gonna be any clearer. If you wanna make your world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na na na na na na na. I've been victim of a selfish kind of love. It's all that I realize. At home. When I naked alone, couldn't hear with me, pretending that they're not alone. I really the deepest scars, somebody broken heart, and a washed out dream. The fun on the powder and when you see this began the place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking if the chain is swayed. When no message can have been any clearer. If you wanna make your world a better place, take a look at yourself and then make a chain in the man in the mirror. I'm asking if the chain is swayed. When no message can have been any clearer. If you wanna make your world a better place, take a look at yourself and then make a change. Bravissima, bravissima. Un pezzo molto difficile, mica semplice, un pezzo di Michael Jackson. Avete molto... sentito anche la voce di Paolo. Paolo, bravo, bravo, bravo. Ha dato vigore anche lui al pezzo. La prossima volta ti chiedo di fare Gone Too Soon. Com'è? La prossima volta ti chiedo di fare Gone Too Soon. Va bene. Va bene? Sì. Ti piace, ti piace Michael Jackson? Sì, no, grande anche artista. È una grande mancanza. Sì. Il senso del ritmo però che aveva lui. Ha lasciato tantissime canzoni, quindi... Infatti. Adesso poi stanno riscoprendo canzoni che sì, lui, che aveva che lasciato, poi dubito, quindi... che dubito che... Vabbè, anche lì. Se qualcuno dubita che siano tutte sue, qualcuno dubita che canti sia... lui, sì. Qualcuno dubita che li abbia incisi lui. I dubbi ci sono. I dubbi ci sono. Beh, sì, insomma. La Sony non ha dubbi, però, quando incassa milioni di dollari. No, infatti. Assolutamente. Credo che sarebbe stato meglio fare al limite una raccolta di successi, al limite se proprio si voleva fare, ma insomma lasciare stare le cose così come stanno. Mm. Questo è il mio pensiero, poi per carità. Vabbè, lì è un po' un discorso che va oltre la musica. Sì, molto. Oltre la musica. Gli interessi. Cioè, business e basta, ok. Facciamo lo stesso giochetto alla... facciamo il giochetto alla Elodea e a Paolo. Velocemente. Velocemente, giochetto semplice. Un'isola deserta, che dischi porterete o vorreste portare un'isola deserta? A vostro piacimento. Quanti soprattutto? Beh, due, facciamo due a testa. Tre al massimo. Oh mamma, è molto difficile. A vostro piacimento, senza qualsiasi genere musicale, senza problemi. Cioè, quelli che vi piacciono di più. E chiaramente, quelli che adesso vi piacciono di più o che vi piacevano di più prima. Assolutamente che uno dei miei artisti preferiti è Mark Knopfler. Come mai? Da solista o come con la band? Sì, Dire Straits, che lui hanno portato un grande valore, credo. Ma i Dire Straits così sì. Cioè. Beh, qualcuno, qualche maligno ha detto i Dire Straits sono Mark Knopfler. Beh, lui è un grande chitarrista, un grande cantante, quindi è anche il leader, quindi come hanno detto i Queen è Freddie Mercury, quindi voglio dire. Sì, ma qui se mi posso permettere, non era solo Freddie Mercury, c'era Brian May, c'era sì. mentre i Dire Straits c'era Mark Knopfler e gli altri, secondo me. Non so se sei d'accordo, sì, se sei d'accordo anche te, Paolo. Infatti lui poi ha anche fatto tantissime cose da solo. Esattamente. Come solista. Esattamente. Quindi Mark Knopfler, number one. E number two? Number two, con un po' di carica, gli AC/DC. Però. Da un estremo all'altro. Ci siamo ascoltati io e Paolo venendo qua. Sì, perché su un'isola deserta bisogna anche dare un po' dare di carica. Hai visto i Paolo l'ultimo concerto che hanno fatto? No, non sono riuscito a vederli. Sono tra i pochi big che mi mancano. Ne hai visti tanti concerti allora? Sì, diciamo, cerco di farla come la collezione delle figurine, di vederli tutti finché posso. E gli ultimi che hai visto? L'ultimo concerto che hai visto? Gli ultimi che ho visto, vabbè, Jamiroquai settimana scorsa. Cosa ne dici? No, anche io volevo andare. E cosa si può dire di un grande artista, di una band che suona così bene? si può dire niente, sono anche bravissimi. Se è stato criticato col disco nuovo che ha fatto. Il funky è sempre il funky. Non lo so, non sape- è sempre una sempre questione di gusto, di gusto, nel senso, suonare bene suona bene, i brani possono piacere o non piacere. Certo, certo. Quindi... Anche Agostino è un fan dei Jamiroquai. A me è piaciuto, il concerto è piaciuto molto, e i brani mi piacciono, quindi non posso dire niente su Jamiroquai. Quindi, Jamiroquai number one, number two? No, scusa, come concerto, come il primo, come brano, come disco, il primo disco da abordare su Un'isola deserta. Sicuramente un disco degli U2, probabilmente di Joshua Tree. Agostino, cosa dici? È il migliore. È il migliore, assoluto. C'è la canzone I Still Haven't Found What I'm Looking For dentro che... Esatto, sarei un po' indeciso però tra... La versione gospel, di Joshua poi. Tree e... Actum Baby. Che è la novità assoluta. A me piace The Joshua Tree. Sarei combattuto, li porterei tutti, ma mi avete detto no, ma anche io due, però cioè, si possono fare quei CD contenenti con 100 tracce, ecco, quindi mettere dentro tantissime cose. Quindi ho fatto Beh, possiamo scelte. Fare tre al massimo, possiamo aggiungerne uno, dai. Madonna, difficilissimo. Beh, insomma, se sei a casa ti dici voglio ascoltare un disco, cosa ti ascolti? Facciamo così. Tu hai citato Mark Knopfler prima. E resto sempre con gli uomini. Sting. Resto sempre con gli uomini. Però la scelta è veramente io. Sì, lo so, lo so. Tutti, cioè, adoro mentre veramente... Paolo è partito con. Non mi ricordo più cos'è. Con gli U2 e come secondo sì, disco. Come secondo disco, vabbè, sicuramente qualcosa di più rock. Perché naturalmente più chitarristico. Certo. Probabilmente. Metropolis 2000 dei Dream Theater. Così. Sento una band molto tosta. Stiamo andando sul pesante. Molto tosta. Questo proprio molto come tosta. Musicista, qualcosa da ascoltare. Cioè, ho scelto questi tre perché ho visto sull'isola deserta c'è il momento intimo. Certo, certo. Ma lui ha scelto una band tosta alla grande. Per me è un po' troppo, però. Bravissimi musicalmente parlando. Assolutamente. Sì. E Rodea, ti porto due saluti. Sì, il primo è di Roberto. E ciao, dice, Roberto. Ciao Roberto. E dice: non riesco a capire se è più bella, brava o simpatica. Oh, grazie. Nessuna delle tre. Scherzo, saluto Roberto con un bacio. E anche Giuliano ti fa i complimenti, dice bravissima, anche a lei complimenti. Grazie Giuliano, scrivimi così ti rispondo personalmente. Tra l'altro è in un bar, lavora in un bar, quindi ti sta ascoltando tutta la gente, i suoi clienti. Saluto tutti quelli che stanno ascoltando. Ok, sono le 22:19, abbiamo il tempo per ascoltare una canzone e poi ci salutiamo. Hai visto come è passato subito il tempo, Rodea? Hai visto? Velocemente. Peccato, magari. Io stavo qua ancora. Ma ti aspettiamo per la seconda puntata. Sì. Quindi non scappi più ormai, sei di amica di Blu Radio Veneto ormai. Questa la dedico a tutti voi. Grazie. E a tutti gli ascoltatori. Ok, grazie. Si chiama? Ancora non c'è. Blu Radio Veneto. Ancora non c'è, mi chiedo il perché, evapora in fumo senza respirare. Ancora non c'è una parte di me indifferente. È troppo facile lasciarmi perdere. Pensieri che mi stringo con me stessa, non è certo come ieri, quando eri tu, una prigione nel mio blu, mi sale sulle mie ali, tinto di zucchero e rimani, l'ultimo dei miei pensieri, ma il primo dei miei problemi, è fuori dalle mie mani, comprata dai tuoi bracciali, che mi lasciano il colore di un grigio senza sole, ti penso se a qualcosa vale. Ancora non c'è, mi chiedo il perché, evapora in fumo senza respirare. Ancora non c'è, una parte di me indifferente. sarai, vedrai. E dicono di me che ho perso tutto e tutti sanno prendere le loro conclusioni, ma sarò solo io di fronte a me stessa, uno specchio che rifletta. Portami via, portami via, se non per odio lascerò la scia di ogni lacrima che è colpa mia. Ancora non c'è, dimmi chi sei, non ti ho avuto mai, mi inganna e lo sai. I tuoi sorrisi nelle mie mani, i tuoi domani su falsi piani come aquiloni senza più spago, mi chiedo se qualcosa vale ancora. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, il finale rocchettaro, nel senso positivo del termine, con molta grinta, ed è giusto che sia così, perché tu avevi detto prima di partire in trasmissione, voglio finire con finale potente. Eh sì. Ma adesso ce ne fa un'altra veloce magari, ce ne fai un'altra. Una reprise veloce, se la fai. Oppure quello che vuoi tu, vuoi fare un'altra veloce? Mm. Ci salutiamo con una veloce, pensaci cosa vuoi fare. Che dici? Facciamo con Paolo. Aspetta che riguardo la scaletta. Riguardo la scaletta. Puoi rifare anche all'RB se vuoi, Che è piaciuta anche quella dolce. Insomma, quella... Fare anche quella. Qual era quella dolce? Quella a due voci. Come si chiama? Non mi ricordo più il titolo. Lasciami volare. Lasciami volare, sì. Ok. No, aspetta, prima salutiamo, diciamo le ultime cose. Altrimenti ne faccio una cappella. Fai una cappella. Come dai, vuoi, facciamo vuoi, così. Come fai, una cappella. Okay. Cioè, un pezzettino, magari non tutta, però. Okay. Quello che vuoi tu. Prima però salutiamo. Sì. No, non ti ringrazio. Prima diciamo le cose tue tecniche. Le mie cose tecniche. Allora, il sito internet che è www.elodea.it. Mi trovate su Facebook, la pagina fan è Elodea e la pagina personale è Elodea Singer. Poi? Poi saluto. Poi basta. Ricordo anche il sito della mia etichetta discografica, è www.gnrecords.com. Poi saluto tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Il disco? Ringrazio voi. Il mio disco si trova in vendita su iTunes e a livello digitale. Invece se si vuole fisico, basta andare nei negozi Feltrinelli o richiederlo sul sito internet www.self.it. Le cose sono tante da ricordarsi. Oppure chiedendolo a te, magari. Chiedendolo a me, infatti. Anzi, ve lo spedirò con la dedica. Ecco, bene. Una e cosa in più. Il disco si chiama... La Regola. Lei è... Elodea. Sembra quasi una... Botta risposta. Allora, a parte gli scherzi. Innanzitutto grazie a Paolo. Prego, di avere... Lo ringrazio anch'io. Beh, certo, di aver assolutamente partecipato. E Elodea, io ti ringrazio veramente di cuore, con affetto, di aver partecipato, di essere qui questa sera da Brescia, sei venuta a trovarci, a farci compagnia per un'ora e mezza circa. Sei splendida, te lo dico che lo sentono grazie. Tutti, in tutti i sensi. È una voce bellissima, lo ripeto per l'ennesima volta. Agostino ringrazia, ti ringrazia. Io ringrazio te. Maurizio. Sì, grazie Elodea di essere venuta a presentare il tuo disco dal vivo, acustico, che è una cosa semplice, una cosa ben difficile, però interessante, è venuto fuori bene, è venuto fuori anche la tua grinta, questo è importante. Bene, ringrazio anche te per la splendida intervista. Grazie a te. E noi ti aspettiamo per il prossimo disco. Va bene, molto volentieri. Vi faccio sentire un pezzo, si intitola Un'alba in più. Ok. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima, cambieremo completamente genere, avremo un gruppo rock di Roma. si chiamano Viola Polvere e quindi vi aspetto giovedì prossimo alle 21, sempre con il mio fedele compagno, mai gemello, tuo alter ego, come abbiamo detto praticamente, Maurizio. Di nuovo ciao e alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Come se fosse andata via un'alba in più, una vera donna madre, un accendino sempre al vento, e pregare l'amore che non hai, adattarti alle mie infelicità. Cosa non va? E non ho avuto parole in tasca da buttar via, solo plastica al sole, che filo di quest'armonia. E non chiedermi niente, non lo so, poi vorrei dirti tutto un libro che inchiostro non ha. E sì, è come aprirsi al mondo che rimani senza me, mi resta solo andare via dicendo una bugia al limite del logico, e nel mio sogno rimarrò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.